as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui oggi ad Il Pane e le Rose, trasmissione dei Metalmeccanici. Ricordo a tutti che siamo in onda su Radio Città Fucico 103.1 in FM, ci potete ascoltare, però anche sulla pagina Facebook Il Pane e le Rose, dove troverete i podcast di tutte le nostre puntate e anche della puntata di oggi. Mi raccomando, seguiteci. Ascoltate tranquillamente i nostri podcast. Ora, 26 marzo c'è stata la manifestazione a Firenze, Insorgiamo, una manifestazione importante. Noi siamo stati lì come il Pane e le Rose, come lavoratori metalmeccanici, chiaramente non potevamo mancare. Siamo andati con tanta gente, da Bologna siamo partiti in tanti, noi con le macchine, qualcuno in autobus, qualcuno in treno. È stata una bella manifestazione e lì abbiamo intervistato Snupo, lavoratore della GKN, anche cantante, artista, insomma un personaggio poliedrico. L'abbiamo intervistato, insomma. Adesso ascoltiamo prima un pezzo che potete trovare su YouTube. Snupo è abbastanza famoso. Ascolteremo oggi un paio di pezzi suoi durante la trasmissione. Però mi raccomando, ascoltate bene l'intervista, che Snupo ha tante cose da dire, un punto di vista, come lo definirei, metalmeccanico, compagno new age, insomma, tanta roba, come dice lui. Ci sentiamo poi per le conclusioni. Non sei normale, nessuno ragiona come te, ti devi vergognare, se il caso. Capito, non insistere così, devi accettare, il mondo è sempre stato così. Ma non è mica vero, poi, no, io non ci sto, il mio cuore seguirò, le vostre certezze. vivi la pieno, non è ancora finita. Vieni con me, dai. Allora, siamo qua a Firenze, oggi finalmente siamo arrivati, il 26 marzo, Insorgiamo Tour è finito, oggi c'è una manifestazione, c'è tantissima gente, io non riesco a conteggiare, sto qua con Slupo, il nostro compagno della GKN, operaio, militante, che è, oggi ci ha animato come al solito con i suoi tamburi. Voi sapete che noi del Pane delle Rose abbiamo anche messo qualche suo pezzo musicale, che lo apprezziamo non solo come militante di lotta e combattivo di fabbrica, ma anche come musicista. Io ti giudico un new wave, non so se faccio bene oppure un ibrido. Un ibrido, dai. Allora, Slupo, siamo qui per parlare chiaramente della manifestazione. Certo. Dici un po', secondo te com'è andata oggi? Com'è? Ma benissimo, cioè nel senso, tutto tranquillo, la gente sorridente, i bambini, la gente, insomma. Cioè, ti dai veramente in questo momento di follia un po' di speranza, no? Una forza, cioè un, diciamo, si è creato una, si è canalizzato una serie di sensibilità che tirano tutti in una direzione, quella della Costituzione, di avere un mondo migliore, senza guerre, senza sfruttamento, senza inquinamento devastante, può essere, e teniamo conto che le guerre da quel punto di vista sono un massacro, perché quando parte il discorso della guerra chiaramente va tutto in cavalleria, da noi si dice in cavalleria, cioè va tutto in secondo piano, il discorso dei diritti, probabilmente i diritti, cioè tutte le possibilità che possono essere di avere un ambiente più pulito, perché è un massacro, perché poi, cioè, pensare solamente un minuto di guerra quanto costa, no? un missile, quando ci trova mancano soldi per rimettere a posto una scuola o per rimettere a posto un ospedale, ma sì, che si sta parlando veramente? Ci sarebbe le villette per tutti se tutti avessero smesso di ragionare secondo la logica che il più forte c'ha ragione, no? E per cui, insomma, vedere tutta questa gente in questa cosa qua, con tutti questi valori, uniti nella diversità, ognuno ha le più sensibilità più marcate, ma comunque sempre in una certa direzione, che è il cuore, cioè ti viene la paresi al viso col sorriso mentre stai. È vero, infatti sono tre ore che ti vedo che c'è il sorriso perenne. Sì, ma anche io. Sì, perché comunque la rivoluzione è quella, no? Nel mondo di arte mi viene a dire, in un mondo che ti vuole triste, la forma più alta di rivoluzione è il sorriso, no? Quindi a un certo punto la rivolta, la lotta deve essere comunque accompagnata da un atteggiamento gioioso, anche rabbioso su certe cose, perché chiaramente una persona non si sa indignare, non è una persona che può essere capace di trasformare se stesso e il mondo, perché non... Ciao fratellino, c'era un mio amico. E quindi a un certo punto ci vuole giusto un processo, mai cadere nell'odio, no? Quello lì no, ma però cioè avere una certa determinazione e opposizione verso ciò che è barbarie, mi sembra il minimo, anche per rispetto per tutti i nostri antenati, che qui mica 250 anni fa, cioè si parla di qualche decina di anni fa, hanno fatto affucilate contro i nazisti per allontanarli, e ora invece si trova un sistema liberista che praticamente crea un nuovo tipo di barbarie, giacca e cravatta, ecco, senza... Infatti voi l'avete subito sulla vostra pelle questo sistema liberista, avete lottato contro il liberismo e in un certo punto avete anche vinto. Oggi siete però in piazza a rivendicare che cosa? Ma intanto noi siamo noi si vorrebbe fare la fine della rana bollita, perché ecco, nel senso, bravo. Noi ci sta, ecco, quello lì, e quindi noi si sta sempre desti, però nella nostra lotta si cerca di non scordarsi delle altre lotte, perché le nostre lotte, cioè per dire scoppia proprio una guerra, no? Di quello proprio messa male. Ma secondo te quanto potrebbe andare, appunto, come si diceva prima, in secondo piano il discorso dei diritti dei lavoratori? Cioè, dicono ora non è il momento, non si può spendere, ora qui un po' si può partire, che ci si deve mettere a fare missili? Cioè, che fa battuta, no? Nel senso, certo. È chiaro, ora è una priorità intanto cercare di portare di nuovo la ragionevolezza e il dialogo invece di cominciare a ripensare di mandare le armi, cioè, oppure come qualcuno hanno applaudito in questa piazza qualche settimana fa, incredibile, cioè, dicendo volevano una no fly zone, ma lo sanno la gente che cosa vuole una no fly zone? Vuole aeroplani NATO che volano e il rischio di una terza guerra mondiale, ma santi Dio, ma un po' di intelligenza, un minimo di studio, ma le persone si devono prendere un po' di responsabilità, devono cominciare a ragionare un po' il loro cervello, cercare di farsi avere sempre uno spirito critico, perché lo spirito critico è fa la differenza, perché se ogni volta non si cerca di dimostrare che una riga è corta, creando una più lunga, è chiaro ci si accontenta e le offre il sistema, e quelle persone passive d'orte dicono no, ma io non credo nella lotta, non credo in questo, sai, ma secondo te cambia qualche cosa se uno sta a casa veramente, come dico io, d'orte a scureggiare sul divano? Cioè, ma se un rivale si ritrovasse o la propria figlia o il proprio figlio o il proprio compagno senza una gamba perché è cascata una bomba, lo vorrebbe sì o no? Della gente scende in piazza, si mobilita perché è indignata, perché vuole venga smesso queste cose e cambia la logica di cose. Certo dici, certo se un rivale sono 1000 persone una cosa, ma se il mondo intero, veramente tutte le persone progressiste hanno un certo valore, scendessero in piazza, ma sai differenza farebbe? Certo. Ma... E oggi diciamo... questa piazza abbiamo visto tanti giovani, tanti lavoratori e tante persone comuni che hanno, io ho visto tantissimi striscioni contro la guerra, quello che tu stai dicendo è veramente è una cosa che veramente ci stanno salutando. Certo, amici. Qua siamo in mezzo alla gente, per chi ci ascolta. Sì, sì. Insomma, oggi è vero, gli striscioni contro la guerra sono stati tantissimi, c'erano sì. Anche i ragazzi di Friday for Future, sì. Ieri voi siete stati a sì. Manifestazione, loro sono venuti oggi qua. Certo. C'erano tantissimi studenti, questo è stato veramente una cosa bellissima. Certo. L'Italia che è qui, l'Italia che non è venuta qui, che vuole capire, questo che oggi è venuto fuori, è una battaglia che porterete avanti? Oggi c'è tanta gente che secondo me vi vede come un punto di riferimento politico. Io ho parlato con molte persone e sono venute qui che veramente sperano che in Italia qualcosa cambia. Certamente non potete essere voi quelli che cambiano le cose, però secondo me oggi qualcosa è iniziato. Allora, è già iniziato da tantissimo tempo, perché già la prima manifestazione, se non ci sarebbe stato gente, certo. Senza pensare che sta sempre un'escalation, sempre tantissima certo. Gente. Il punto è questo: non esiste salvatore della patria. Ognuno, invece di incominciare a criticare il sistema, incominciare a dire no, quello è sbagliato, i politici sono dei ladri, uno deve chiedersi che tipo di persona può essere, come dice anche Dario. Uno deve sempre chiedersi che tipo di persona può essere. Prima di cascare dentro la fossa, uno deve cominciare a chiedere che tipo di persona può essere. Una persona che non si prende le sue responsabilità è una persona mediocre, e se deve guardare allo specchio e dire io che cacchio ho fatto io veramente per trasformare il mondo. È chiaro, non basta mettersi a marciare su una strada se poi dopo si rimane dei bifurchi nella vita, certo. Perché il messaggio è lo più alto, al di là della marcia, è quello che te cerchi di essere, in modo che cerchi di essere empatico, cercare di essere amorevole nei confronti degli altri, anche determinato, perché la tiepidezza per me non è virtù. Cioè quello lì dice tutto tranquillo, lì, e quello è più scomodo, non meglio è lo scomodo se quella persona lì riesce a smuovere delle coscienze e ti fa mettere dei dubbi. Perché perché la zona del comfort di gente parla in quel modo, in chiave bonista, è pieno, ma quanto è bravo lì, ma bravo un cazzo Dio, scusa la parola, puoi dirlo. Ma bravo un cazzo Dio Cristo, ma cavolo, ma come fa a non indignarti se vede Dio Bono della gente muore sotto le bombe, Dio Bono, gente sfruttata come delle iene e gli danno di lire, oppure una donna che magari entra a lavorare e gli fanno firmare un cazzo di foglio in cui nel momento in cui rimane incinta e la deve essere licenziata, ma sono cose che fanno un cazzo come le bestie, cazzo. Certo, dunque noi dobbiamo insorgere. Dobbiamo insorgere, però partendo... Allargare la lotta. Assolutamente, ma con la consapevolezza che il mondo cambia se cambiamo noi. Okay. Perché se noi pensiamo di andare in piazza, cioè camminare e fare le ossa lì, e poi oltretutto non fai nient'altro per cambiare te stesso, è chiaro che diventa solamente un modo per consumarsi un po' le scarpe e raccontarsi quando ero giovane quanto ero ribelle. Non è così che funziona. Noi bisogna cercare di combattere su tutti i fronti, se si vuole, o come insorgere su tutti i fronti, nel relazionarsi con gli altri, cercare di esserci anche una persona in difficoltà, perché delle volte anche un fattore in una situazione come nostra, anche Dario lui disse, ragazzi, bisogna a guardarci intorno e chiedere e guardare interno e sta attenti non ci siano compagni e barcollano. Certo. Perché potrà succedere quella cosa. Ma succede sempre? È perché la depressione è portata di cosa. C'è gente che ci è rimasta malissimo. Però è stato il calore. Noi l'altra settimana sarà a parlare a Arezzo. E ha avuto il fan, ma come fate voi andare, cioè, a fare tutte queste cose che non si riesce ad andare d'accordo? Ha fatto una madre, lo sa che come si fa? Una madre cerca di essere amorevole, cerca di voler bene a tutti i suoi figli. E noi allo stesso modo, no, volessi bene a tutti i nostri compagni. È chiaro che poi la cosa lì si allarga, perché la gente dice, oh, ma questi sono ganzi. Se vai in un posto in cui non c'è calore, ma dove vai? Delle volte uno mi disse, no, ma sai, io vado in un posto... in un ritrovo si di gente impegnata, però arrivo lì, nessuno mi viene lì magari a parlare, no, ci si arriva la cricca, no, il gruppettino, non funziona in quel modo. Quello è un atteggiamento che non funziona, la gente ha bisogno di calore, ha bisogno di lavoro, ha bisogno di mangiare, ma ha bisogno anche di calore, perché il calore nessuno, quello lì non te lo metto mica in busta paga, e nemmeno il reddito di cittadinanza te lo mettono il calore. E non è nemmeno compreso nell'ossigeno e tu respiri. Quello o cerchi di donarlo te come essere umano o non funziona. Sono d'accordo con te. A me piace parlare con te, Snugo, perché hai detto una cosa giusta. Cioè, dobbiamo insorgere ma sviluppare anche una coscienza. Ma assolutamente. Che non è solo coscienza di classe, ma anche coscienza personale. Ma mi sembra il minimo. Cioè, no, cioè, ma guarda. Partiamo da lì, diciamo. Sì, assolutamente. Sì, ti volevo chiedere una cosa. Dimmi. Invece, in fabbrica, io ti seguo anche sindacalmente, tu sai, io sono della FIOM, come sì, certo. Cioè, chiaramente seguo anche quello che... Come sta andando la vertenza? Cioè, che adesso voi vi state incontrando, state cercando di sviluppo. Come sta andando anche la parte poi prettamente sindacale del vostro accordo che avete fatto? Bisogna stare desti, perché in realtà, sai... E appunto il discorso sempre si fa della rana bollita. E certo, infatti l'hai detto all'inizio. Bisogna stare molto attenti su quella cosa lì, perché in un momento un po' bassa, intanto i media hanno cominciato a dire la CKN è salva. No, aspetta. Un attimo. Già il fatto che è arrivato questo Borgomeo fa molte domande, uno si fa tante domande, sta per ripartire le lettere, a un certo punto dopo esserci incaccati come delle bestie, il giorno dopo arrivi Salvatore la Patria. Il Cavaliere Bianco. Ma sì! A parte lui farà da passaggio di proprietà, sì. Però la cosa poi viene fuori che Melrose detiene il 30% dei pubblici italiani. Questo è un problema. Ecco, capite? Voglio dire, quindi c'è il caso magari questa persona, magari che fa da passaggio, l'abbino coinvolto per dire guarda, si rompono talmente tanto le scatole, pensaci te un po' a gestire questa situazione e non me ne stupirei. Certo. Sinceramente speriamo di no, speriamo di no, perché... Ma speriamo di no, ma insomma tenendo conto, guardando tutte le altre vertenze, Wilbur, Arditania e Capitani Coraggiosi, ma l'era. Ma oggi voi siete in cassa integrazione? Sì. Speciale? Sì. E dunque mi sembra speciale, mentre il mio sta sulle cose burocratiche, un canaccio. Però alla fine, cioè, cosa si intravede? Qualche incontro che è stato fatto? Ci sono delle... Tra un po' potrebbe ripartire qualcosa oppure è tutto fermo? Allora, ieri è stato l'incontro ai MIS e poi dovrebbe avere, mi sembra, una prossima settimana, cosa così. Ancora il nome non è venuto trapelato, però a grandi linee qualche cosa è accusato, però non ci siamo esposti, diciamo, okay. Diciamo la RSU non si è esposta. Però si sa, allora entro qui tanto tempo, entro il 2022, fine 2022 succederà questo, poi entrano una truppa di lavoratori, però si sa che ogni volta... Si è già visto in questi mesi, l'asticella viene sempre spostata un po' più in là. Questo quindi, non va bene. Quindi allora io, siccome mi manca 3 anni e poco più di andare in pensione, guarda Dio, ma che rientro o no? Cioè, io te lo auguro. No, ma sì, ma comunque sia. Comunque sì, anche comunque se voi siete vigili, state vigilando, ma certamente. Ma guai a quello lì che aspetta la manna dal cielo, ma è un disgraziato, uno sta aspettando la manna dal cielo. È condannato ad essere preso per il naso in continuazione, una persona che c'ha un certo tipo di... Io vi faccio l'in bocca al lupo per la vostra vertenza sindacale. Viva il lupo sempre! Certo, io sono abruzzese, i lupi li amo. Comunque sia, questa bellissima manifestazione, io credo che da qua nascerà qualcosa, speriamo che si insorgiamo, cresca sempre di più, ci sia sempre più gente dipende che persone, vuole insorgere, io penso di sì, dai. Cioè, nel senso, dipende da noi, cioè, nel senso. Allora, uno si mette sempre in testa, che non esiste Salvatore Padre, punto. Certo, questo abbiamo capito. Fine della discussione. Cioè, le parole stanno a zero, anche quelle, le parole stanno a zero, e l'unico modo di dire è fare. cioè lì per me si può chiudere, anzi, okay, aggiungendo, dire una persona che stanno lì a aspettare la manna dal cielo, si guardi un attimo allo specchio e dicono, ma io che sto, ma no, ma più che altro se faccio un esame di coscienza, ma io che sto facendo? Ma infatti, come dice sempre Dario, poi alla fine, Cando, che devi fare? Stare a casa? No, ma non può vivere, se c'è un certo fuoco dentro non può vivere in modo differente. Cioè, come dici sempre tu, che uomo sei se non lotti, no? Se non lotti, che uomo sei? 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6. Ciao Snupo. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Sorgiamo, sorgiamo come il sole al mattino. Sorgiamo, sorgiamo come il sole al mattino. Se non lotti, che uomo sei? 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6. Uomo sei, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6. Abbiamo ascoltato un bellissimo pezzo di Snupo, l'abbiamo sentito in questa intervista magnifica, dal mio punto di vista è sempre un piacere intervistare Snupo, lavoratore della GKN, musicista, New Age, veramente un grande. La canzone che abbiamo ascoltato è Insorgiamo, l'inno di Snupo, di lotta dei compagni della GKN. Volevo dirvi che chi ha ascoltato l'intervista ha capito che la manifestazione di Firenze è stata il 26 marzo, è stata una manifestazione che ha visto temi del lavoro, temi dell'ambiente, temi della pace. Ci sono stati tantissimi lavoratori, ma soprattutto studenti, soprattutto militanti politici, c'era tanta gente. Abbiamo incontrato compagni, amici di posti, insomma, di tutti i posti d'Italia. C'erano compagni dalla Sicilia, al Trentino, alla Sardegna, c'erano persone che, delegazioni di tanti posti d'Italia, di tante realtà che fondamentalmente si possono racchiudere su chi si occupa in questo momento di queste tre questioni. Chiaramente gli studenti in questo momento sono stati numerosi, perché comunque c'è tutta una mobilitazione studentesca che si collega anche ai Friday for Futures. Il giorno prima c'è stata la manifestazione, i compagni sono andati da GKN in questa manifestazione e hanno fatto con loro un lavoro che dura da mesi, sono andati in giro per tutta Italia con Insorgiamo Tour e sono riusciti comunque a portare a Firenze tantissime realtà. C'erano i soliti partiti di estrema sinistra, tantissimi gruppi politici, c'erano rappresentanze di tanti sindacati, insomma, antagonisti, conflittuali, anticapitalisti, ma anche confederali, in minima parte, però c'erano, e comunque devo dire che è stata una manifestazione che porta della speranza. L'avete ascoltato Snoop nell'intervista, lui chiaramente ha spiegato che non c'è qualcuno che ha la verità in tasca, non sono loro quelli che possono far cambiare le cose in Italia. La speranza è che la coscienza di classe cresca, che questa aggregazione che loro hanno cercato di fare tra lavoratori, studenti, pensionati, insomma popolo, possa crescere sempre di più. La cosa più importante, loro non hanno anche dichiarato negli slogan che si vedevano negli striscioni, diventare classe dirigente. Bisogna cambiare i rapporti di forza per poter cambiare dalle leggi sul lavoro alle politiche ambientali, alla lotta contro la guerra, contro il riarmo, che oggi è una questione molto sentita, insieme all'ambiente. Però bisogna cambiare i rapporti di forza. Per far questo bisogna che la gente cominci a crescere la coscienza di classe, a crescere anche la coscienza propria individuale e impegnarsi in questa battaglia. Quello che loro stanno chiedendo è: uniamoci tutti, cresciamo, allarghiamoci, diffondiamo l'idea di insorgere tutti insieme, è l'unico modo per poter cambiare questo paese, diventare classe dirigente. Ma per diventare classe dirigente bisogna cambiare i rapporti di forza, bisogna essere in tanti ed essere comunque tanti ma convinti, e fare e scendere in piazza e militare e combattere. Io vi saluto, compagni, con questa puntata di speranza. Ci sentiamo alla prossima puntata e alla prossima. I vent'anni bui a volte capitano nella storia, ma c'è un giorno in cui finiscono, e io non so se questo è il giorno. Io so che abbiamo l'obbligo di provare a insorgere, di provare a trasformare questa lotta in una mobilitazione più generale, perché altrimenti non ci salviamo. E Firenze, suoniamo la martinella per dire che entriamo in guerra e che prima o poi bisogna liberarsi. Insorgiamo insieme! Nelle piazze, nelle fabbriche, vite spezzate dai rumori delle macchine, lottano uniti gli operai e le operaie, lotta di classe, mentre il padrone infame gonfia bene le sue tasche. Lo Stato è complice da sempre per fermare questo scempio che va avanti già da tempo, non ha fatto niente, sta dalla parte dei potenti con le mani in pasta. Scendiamo in strada tutti uniti, se a gridare basta, basta un'email per mandare a casa tutti quanti, sottopagati in mezzo ai campi con i visi sfatti. Per le multinazionali siamo i nuovi schiavi, paghiamo zero, siamo numeri immatricolati. Siamo i figli della nuova resistenza, costi quel che costi fino all'ultima vertenza. Pronti a insorgere, con la rabbia pronta a esplodere, mentre il vento soffia forte. Ci terrorizzano, delocalizzano, ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare il minimo, insorgiamo dando vita a un fronte unico. Ci terrorizzano, delocalizzano, ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare il minimo, insorgiamo dando vita a un fronte unico. Recrudescenza costante del capitale, la coscienza che si espande tra le fabbriche operaie, la lotta in vita nella piana, colgo la sua essenza, costi quel che costi fino all'ultima vertenza. Sei solo un numero, che importa tu chi cazzo sei? Di punto in bianco verrei licenziato da un'email. Per i miei figli vivo dentro il posto di lavoro, per insegnarli cosa sia la dignità di un uomo. Si canta e si resiste, un altro turno finisce, dentro il tempo si è fermato come a Chernobyl, cadendo poi si vince, quanto ti inorgoglisce sapere che fino alla fine tu rimarrai qui. È la rivolta dei dannati di una notte eterna, perché i padroni giocano con la tua sofferenza. L'11 agosto come il giorno della ricorrenza. presenza. Classe operaia insorge e suona la tua martinella.